Buonasera. Già, sono entrato a salutare, non c'è nessuno. Io sono tornato con la spesa poco fa e sto iniziando a cucinare adesso. E quindi niente da fare, dai, forse dopo. Io non sto entrando perché ho una fiacca che non ti dico, proprio una stanchezza muscolare, anche a livello di muscolo cardiaco, mai vista prima. Però non è Covid, è roba che negli anni così sta un po' peggiorando, tutto lì. Ciao Gia, buona serata. Ciao Marco, io non so qual è l'antidoto per farti passare tutto. Un bel massaggio dalla bella biondona. E occhio di patate. Ci vuole un po' di patata, capito? La panacea universale. Chi è entrato? Buonasera, avanti. Ciao Marco, ciao Gianni, sono solo ascolto, sto facendo una cosa, va. Ciao ciao. Chi è Mario? Io sono, ciao Gianni. Ciao Marino, ciao bene, anch'io non lo stavo riconoscendo perché è molto amplificato rispetto al normale, dai. Va bene, già, ti lascio, già entrerà qualcuno. Io cucino, ciao a tutti, ciao. Va, ciao ciao. Oh yeah. Marino. Bobo. Chi è avanti? Permesso. Avanti, che ho arrugginito. Bene, Claudio. La voce chiara, limpida, recua. Ah, vero. Andamela a vedere com'è. Mandami una foto. Che sono curioso di vederlo. E a me mi piacciono quegli apparati lì. Kappa, là. Ogni tanto qualcuno generoso c'è. Kappa. Ma cosa mi ha messo? Scheda ecco. Quindi tante volte le persone che parlano molto agiscono poco, quindi è meglio che si parli poco e si agisca. Quello che mi avevi detto che devono arrivare i pezzi da fuori. Lo so, io il mio l'ho venduto. No, l'ho venduto subito, il giorno dopo che ho telefonato a te l'ho venduto. Ognuno sa di sé, Claudio, io te l'ho detto, se trovo a vendere la vendo, l'ho venuta il giorno dopo, non c'è nulla la radio, non ha manco alternata adesso, niente, sicuramente l'alternata non la causava la ciabatta che avevo, a chi l'ho venduta ha risolto tutto, gli ha messo l'amplificato e va da Dio, va benissimo. Sì, come se non posso, certamente che posso, Claudio. E come ti stavo dicendo, niente, purtroppo ognuno sa di sé, Claudio. E a Sentino non c'è né di lavoro, solo l'estate fa. Ma che baraglia per caso? Lo so, ma per qua, per città vanno bene, Claudio, non è che per città vanno molto bene. Quegli apparati lì, sì, per città sono tutti ok. Me li ricordo, gli Smith e Delfoni erano piccolini, sì. Io avevo il pollice canali, portatile però. Lo butto quello lì. Comunque il pollice lo conosco, quello lì che stai dicendo tu. Io conosco quello 23 canali che è allo smitter piccolo. Poi c'era il pace, l'inuit, gatta, l'inuit pompava forte, aveva una radio, l'inuit che era una cosa vicina. Mi stavi chiedendo poco fa dell'antenna, sì, l'ho aggiustata, dai, c'era filata perché è stato inserito un elemento, non è stato inserito, sì, nel fondo doveva essere inserito e praticamente ha flettuto di più e fletteva in punta e quindi gli ha fatto delle velature, dai. E l'ho riparata inserendola appena fin dentro e mettendoli tre fascette d'acciaio per tenere K. Già lo so, è così. Sto secondo che devo comprare una cosa. Scusa un attimo che controllo le stazionarie appunto di qua, vediamo un pochettino. Ecco qui. Chi ha attaccato c'è 1-1. Basta che ti rigoli con un altro apparato, fai l'ascolto e quello lì lo rigoli. È l'unica a fare così. Diciamo che non è una regolazione perfetta, però diciamo che dà un'idea. E lo shooter va bene. Quelli vanno bene gli shooter. Se funziona bene è un bel apparecchio quello lì. Il Sommercamp è stato dalle belle radio. Faceva radio valvolari anche la Sommercamp, molto buone. Andavano molto bene, diciamo che come estetica non erano granché quelle, però andavano molto bene. Beh certo, quando una cosa poi piace è così, vabbè, già puoi spaziare, già ne ha di radio tuo padre da regalarti. Magari qualcuno da mettere a posto, ma se si impegna, adesso che se ne va in pensione fra poco. Sì, si è geloso delle cose sue. È fatto così Gianni, sì. Infatti anche molte volte dico, vedi, dico, no, non è mai se ne parla nemmeno, non la vedo. Ehi, ehi, dai. E va bene, dai, Gianni hai di radio, ha voglia, ti puoi azzuffare in me. Ah, non sono difficili, tutto è farci pratica, capito? Come tutte le cose, una volta che ci fai pratica poi ci vai in scioltezza, VFO, eccetera, eccetera. Puoi fare tutte le cose che vuoi. Quando una volta che la conosci la radio, è già tutto, farci un po' di confidenza. Se la usi spesso, cominci a conoscere, esplori e capisci che cosa serve quello e cosa serve l'altro. Ah, ecco. E vabbè, magari chi le usa già lo sa come fare. Magari per voi è più difficile, però c'è chi le usa sa come resettarle. Sono radio che adesso sono già un po' obsolete, però vanno sempre bene. K. Vabbè, ognuno diciamo ha le sue. Se ti trovi meglio con i baracchini, se baracchini, tanto tu sei un CB, non devi usare altre radio. I CB devo usare solo baracchini e boh, se ne cosa me lo vende. K, dai. Vabbè. Andare, già va bene, dai. Lì, tanto Gianni la sta usando molto poco l'apparecchio, così confermi. Vabbè, il periodo del coronavirus si è entrato un po' di gente, cavolo, si stava ripopolando di brutto la frequenza, hanno rispolverato tutti gli apparati vecchi che ci avevano, che erano anni e anni e anni che non li usavano. Li ho collegato a te anche io in banda laterale, ma adesso in banda laterale non ci sto più andando, non mi piace più, perché la modulazione non si sente chiara come in AM, sembrano tupo gigi. K. Ah, le origini di Ozzini, tua madre. Ehi, vabbè, si può. Quando si può, si può. Ehi, Ci sono le linee 12 volt, certo che ci sono. Sono a 12 volt, sono 24 e si possono attaccare le macchine tranquillamente. Io ce l'avevo da 101 watt, lo avevo messo e andava alla grande. Quando usi lineare? Lo seguo, sono macchine particolari perché tutta la cavetteria passa tramite centralina. Se la centralina non legge certe cose, non lo so se può andare bene o male. Lineare infatti io non le metto, devo fare l'impianto in macchina, però lineare non le metto. E basta che metta una base magnetica come sto facendo io, perché io la buco la cappotta, io metto la base magnetica e io mi portavo il portatile quando uscivo col cane, se mi faceva piacere il QSO mi portavo il portatile appresso e parlavo al portatile. Prova adesso se mi senti, guarda, 1, 2, 3, prova. E quando riesci a cancare già lo dito, già non lo fa più. Vedrai che riesci a cancare già lo dito a furia di metà. No, a te non te ne sa mettere. Non ci sono problemi, non ci sono problemi. E appunto, poi lei non è contenta. Lasciali fare, se no fanno peggio. Breccare. Avanti. E buonasera a voi. Chi c'è? Non ho fatto ascolto, siete a te e a Claudio. C'è qualcun altro? Hai detto tu Claudio e Claudio con quel che va rigirito o sei sempre tu? Ok, ok, allora ho capito bene. No, pensavo ci fosse anche Claudio. Torre di controllo, va bene, dai, solo voi. Mi sentite a tutti e due, non ho fatto ascolto. Comunque, avanti a voi il mic. Ciao Robby, sei troppo alto di modulazione, abbassa appena appena, perché sennò quando parla chiodo mi tocca alzare, quando parli tu mi tocca abbassare. Io non ho toccato niente, aspetta, mi allontano un po', sono a quasi un metro dal microfono, è sempre uguale, io non tocco mai niente, forse ho alzato un po' troppo la voce, così è la mia posizione normale. Ehi, allora, se già va bene. Mi metto un po' più lontano, no, io sono quasi a 80 cm dal microfono, non ne tocco mai di regolazione, la volta che sono fatte non tocco mai niente. Ok, cosa è successo? Stavo sentendo disturbi di nuovo. Ehi, vabbè, che sia l'unica soddisfazione della vita sua, quella. Non sono io comunque, dai. Cosa? Non sono io non le faccio di queste giochine. Io non ho detto che era Roberto, assolutamente. E tu sei dato la colpa da solo. Ma sentivo, scusate un attimino, adesso quando stai parlando tu, non so se eri tu il problema, ho una specie di bip sotto. Quando parlavi ogni tanto c'era una specie di bip, Claudio. Non so se sia un problema tuo o qualcuno che ha fatto qualche giochino. No, naturalmente se mi conoscete sapete che io non me ne affitto nulla, cioè non sono a questi livelli, e soprattutto se vedo queste persone qua e cosa devo dire? Pazienza, se vengono così poi alla fine mi stufo e cambio canale oppure mi spengo tutto, non mi piacciono queste situazioni. Vuol dire qualcuno si diverte, ok, avanti di nuovo, come che non sia successo niente, avanti di Gianni. E allora, che soddisfazione di date è peggiore. Va bene, e quindi Robè, adesso che radio stai usando? Sempre la solita, ma sei tu un bel forte invece già, cacchio, rispetto a normale mi sembri più forte di radio. Perché sto usando una statica adesso. È un bel forte, sì, infatti ho detto, ma tu dici a me altro, tu sei rudo più di me, non mi sto ascoltando io, perché lo sai, non tocco niente, però sei un bel forte del radio. Si abbina molto la statica col 3009. Ah, non è il solito tuo, non è il Saturn Echo? No, questo qui è il 3009 con la statica. Eia. Ok, di nuovo a te Claudio e Mike, avanti. Io ho fatto quello che mi ha detto tuo padre di fotografare quella scheda lì, poi non lo so, io sinceramente non so da che mani si mette quel tipo di apparati, non ne ho idea. Devo fare, tuo padre mi ha detto a fare la fotografia dell'altra scheda dall'altra parte. Non ho avuto tempo, tra l'altro in officina, grazie a Dio che stiamo lavorando, ho avuto un attimo di pausa, adesso mi per sciogliermi un po' il cervello, ho detto ci accendo 5 minuti prima di uscire e vediamo se c'è qualcuno e guarda caso ce l'avete voi due. Se no non avrei fatto neanche radio per la voglia che ne ho. Di nuovo a te Gianni. Voi state facendo sempre gli stessi orari, Roberto. Non ho capito, scusa. Ho detto sempre gli stessi orari state facendo. Sì, l'orario è sempre, anzi se stasera sono uscito qualche minuto più tardi perché stavo finendo una cosa, anche domani mattina devono venire a ritirare una macchina e non ce l'ha fatta stasera, viene domani mattina. Capito. E vabbè. domani è sabato, così? Domani mi va la radio, domani è sabato, sì sì. Giù nel sud Sardegna, in zona orientale, alerta meteo rossa. Hanno detto come prima notizia del telegiornale. Chissà le vaghe in invasi. Infatti hanno detto a Olbia, quelli che abitano al pian terreno a trovarsi un'abitazione più in alto. Ma nel nord Sardegna no, ha detto. Tutta la parte del Cagliaritano. Vabbè, magari a noi non ci fa l'alluvione, però nelle zone basse, zone costiere, parliamo di Alghero, vabbè che Alghero neanche, perché è prevalentemente sull'orientale e sul sud. Di lì stare attenti perché di lì si... Cazzo, cazzo, vabbè dai. Io domani devo portare la macchina a capo al coso, non lo so, poi sono a piedi, due rapidi, speriamo che non piove. Vabbè, cosa è successo? Avanti, chiodo RG. Sì, riprendo, ma volevo fare un collegamento a un alimentatore. Devo togliere da un alimentatore che è troppo carico, le devo togliere i cavi di un apparato e metterli nell'altro, ma già lo farò domani, non lo so, adesso non li ho voluti. E quelle soffesserie ti arraggia a farle, non c'è problema per quello. Ne ho fatto mille, io ne ho ricostruito, fatto, però poi già vanno bene. Addirittura in un portatile che mi hanno dato c'era tutto il filo che era mangiucchiato. E ne avevo uno, gliel'ho fatto cambiare da Luca e l'ho messo nuovo, adesso va benissimo. Oh, scusate, sono rientrato. Avanti, Robe, avanti. Cosa è successo nel frattempo? No, mi è saltato il contattore generale, verrà tutto attaccato, non me ne sono accorto. Non è bastata la corrente. Ho capito, no, Robe, cosa hai detto? Hai gridato troppo e si è detto bu bu bu bu. Fammi piano. Ho detto che stavo parlando, mi è mancata la luce a casa, è saltato il generale perché c'era la lavatrice, pompa di calore, scaldabagno, un po' di roba attaccata e non ce l'ha fatta, infatti si è spento tutto in un attimo, ho detto buh buh. E poi non reggono più adesso questi contattori, gli si vedono di prima, non c'erano mai stati questi problemi, adesso... adesso lunedì devono venire da me quelli della Vodafone perché non ne abbiamo cavato piedi, devono venire i tecnici lunedì. Vabbè, speriamo che ti risolvano. Stavo dicendo Claudio, mi ha detto ti ha portato il Sommercamp. Ok, ringraziano. Non so se lo conosco questa persona, magari avrò piacere di conoscerla, va bene. Ok, quindi questo è il Sommercamp che sta utilizzando, ma è una stazione base, Claudio. No, ti ascolto perfettamente, il segnale è ottimo, sei quasi 9 più 20, radio 5 pulita, chiara, niente da dire. Ok, avanti a te Gianni. Ehi, adesso voglio attaccare l'altra di radio, dai, quello tutto azzurro, già lo sai quale, quello della Intec, voglio attaccare quello. E voglio controllare una cosa, dove sbuca il filo, perché ho collegato su un alimentatore due o tre cose, adesso c'è un altro alimentatore e voglio dividerli per non caricarli troppo. Ho capito, tutto azzurro, cosa vuol dire tutto azzurro? Quello che è illuminato è tutto d'azzurro, che c'hai anche tu. Ah, ho capito, lo metto, quello tutto azzurro, pensavo, siccome io ne ho una di radio azzurra, che non c'ha niente a che vedere con questa radio qua, un altro tipo di genere di radio, c'ha tutto il frontale azzurro, però l'alluminio è verniciato azzurro, tu c'hai le luci azzurre. Vai Claudio. Chissà che gliela ha fatto. Ammeno. Scusami Claudio, stavo rispondendo al telefono. No, stai uscendo benissimo, niente da dire. E cosa è il 757 invece? Sì, se ce l'ho io ce l'ho uguale Gianni Doppio Rumo, che credo lo stia facendo funzionare adesso. Un'altra cosa, ma tu avevi un altro, un somma al campo di stazione base pure, o sbaglio? Cava gara. Un attimo già. Ehi, aspetta, è entrato Gianni, avanti già. Ehi, adesso ho cambiato apparato, va. Vediamo un po' come va questo qua. E che radio è questo? Questo è sempre l'Intec, luci blu. Quello che sta dicendo adesso, sta parlando Claudio. Cava gava. Quello, no, quello lì è quello a due stru. Quello che sta parlando Claudio, che c'avevo io, che stavo vendendo, che adesso ho già venduto, era quello allo strumento. E questo è a due strumenti. Ma scusa un attimino, ma tu c'hai anche il multicom, perché? Eia! Scusa, ho già parlato del multicom, quindi come quello mio che c'ha gli strumenti bianchi e a chi sa di liquidi le frequenze, quello lì sta dicendo, è tutto grigio. Esatto, però io gli ho messo le luci blu, te l'avevo mandato, te lo ricordi che te l'ho mandato? Eia, no, però io pensavo le luci blu le avessi messe a quello nero pure. Cappa. No, quello nero no, ho messo solo a questo qua, al multicom. Questo è il multicom, con... il microfono sulle Proxel. Sta uscendo bene, la radio è bella forte. Cosa vuoi di più? Che cacca vuoi di più già? Niente. Un amaro lucano. Ah, così un lucano. Ok, avanti a te Claudio. Stazione base. Quello che ha due strumenti, più il frequenzimetro, più i canali segnati. No, bianca, era bianca l'illuminazione prima. Poi gli ho messo i LED, capito? Gli ho messo i LED blu. Vabbè, te lo ricordi, è il Multicom 497, no, 493, una cosa del genere. 497. 497, sì. Praticamente è un bel apparato, c'ha il modulometro, insomma c'ha il bellino. Questo è bello, l'altro che non mi piace, quello che mi ho venduto non mi piaceva. Quello che non mi piaceva era l'altro, vabbè, non questo, questo è bello. Ah, io te l'ho detto dall'inizio, no, perché ce l'ho io, ce li ho tutti e due, ti posso garantire, provati io, no, ho sentito dire, in ricezione superiore al 140, è proprio qualcuno che non ci crede, facciamo le prove, tutti e due vicini, è molto più silenzioso del 140, poi direi il 140 è un altro tipo di radio, 10.000 volte meglio come potenza, regolazione VFO, sintonia continua, eccetera, eccetera, però quella radio lì, io ti posso garantire, non ne ho trovato neanche uno meglio di quello, in ricezione. In trasmissione non è niente di particolare, però c'ha di buono che si può modificare a 14 watt dalla casa, cioè esce con 14 watt, c'è una specie di modifichetta proprio originale da casa, non devi fare niente di complicato, senza toccare qualcuno gli tira il collo al transistor, è una modifica che dalla casa ed esce con 14 watt, è una radio omologata per cui non ha nessun rompimento di scatole, pulita, è forse una delle ultimissime radio che hanno costruito di stazione base, perché oltre a questo ce n'è un'altra, mi sembra sia il 4009, non so, che quello vabbè è un'altra cosa, non so neanche, non l'ho mai visto, l'ho visto solo in fotografia, è uno spettacolo, quello è ancora meglio, però di stazione base, di nuova generazione, è il migliore di tutti in assoluto, perché c'ha i filtri, poi c'ha 9 bande, quante ne ha, hai visto che puoi entrare col menu e riesci a aprirlo, c'ha un sacco di cose, c'ha wattmetro, rosmetro, modulometro, c'ha tutto, non ne manca niente. Ecco. Mira. Ecco. Torre di controllo, abbassa le volte. Ecco. Certo, più volte del 140, ma di cose si fa vedere, vabbè, ma fai da bravo, non via nessuno, no? Non via nessuno, che prima di te l'ho usata io con la radio. Stai parlando di un baracchino, sempre di un baracchino, ricordati, con una radio a sintonia continua. Capito? E se ti dico io stai sereno. Io non devo sentire coglionate alle 7:05 di sera, devo sentire gente che parla di cose serie. Gianni, quindi non ti piaceva quella che non ti piaceva, l'hai venduto? La mazza che te ne varia. Ecco. Claudio, se non ci credi le mettiamo vicine, facciamo la prova. Il 140 c'ha 20 anni di differenza, ma non di 30 anni. E ti sto dicendo, il ricezione è superiore. Messi vicino, con la stessa antenna, il coso, quello là riceveva meglio, meno problemi di coso, di disturbi. Poi basta provarmi, è una radio molto più vecchia, quello c'ha dei filtri in ricezione, riceve meglio. Te lo faccio vedere se non vi gridi. Comunque facciamo entrare il break, avanti il break. Buonasera, Gavino Salsini da questa parte. Sì, Gavino Salsino. Vabbè, ti ho detto lascia perdere. Lascia perdere. Poi ci sono 140 che ci hanno messo le mani dentro e ci sono 140 come questo che sto usando io, che come ricevitore è superiore al 430, hai capito? Quindi bisogna vedere di che 140 stai parlando. Ok, io con la radio lì l'ho provata prima di voi, l'ho avuta prima di voi. Sono i difetti e i pregi di quella radio, ok? Come sono i pregi e i difetti di questa che ho comprato, che aveva Gianni, capito? Perché l'ho avuta, ne ho avuto due, di cui una l'ho regalata, già c'è Claudio qua, l'ho regalata al padre perché aveva qualcosa da rivedere, capito? Tutto qua. Vabbè, comunque ognuno ha il suo parere, io sono kenwoodiano e non esiste che senza parlare di queste cose. Le radio Kenwood sono radio Kenwood, sono radio che in AM non ci può essere nessun tipo di radio che la possa battere, qualsiasi essa sia, dalla più piccola alla più grande. E questa è una realtà, un dato di fatto, per mia esperienza vissuta. Ehi, vabbè, nome, dai. Comunque facciamo entrare il coso, il aiutami, l'amico che è entrato, non ho capito chi avanti. Bambino Salsedine. Sì, Tomara c'è Grode. Bambino Salsedine. Salsedine? Sì. Allora è sbagliato mio Grode, avanti Salsedine, dai. Robè, comunque tu stavi dicendo che si può mettere a 14 watt, io esco con 3 watt e mezzo questo apparecchio, basta che tu li metti un microfono che si adatti e esce bene lo stesso come vedi. Io ho l'M600 di microfono, non ho mai provato il Danner perché non ho fatto le connessioni, riusciva discretamente, ripeto, di trasmissione non è un granché perché è un po' limitato, diciamo c'è un sistema di coso, di chiuso, è molto stretto come emissione, però tu stai facendo bene, hai trovato il microfono che va bene, niente da dire. Ok, facciamo riprendere la muro, su Claudio, avanti a te. Vai, riprendete voi un attimo, non sto facendo cosa. Ciao Claudio. Buonasera a tutti, buonasera, continuate il nostro show. Ok, io sono qua che sto lavoricchiando, sono intervenuto perché questa cosa non è che mi piace a molto paragonare una HF a un baracchino, cioè stiamo parlando di un baracchino, ok, sempre baracchino per me si chiama, né apparato e né niente, baracchino tra l'altro vintage, ok. Va bene, ma ripeto, attenzione, ognuno ha le sue opinioni, io ho le mie e voi avete le vostre. Avanti a chi tocca. Aspetta, facendo una cosa un attimino, riprendete voi, chi c'era? Come si chiama l'amico? Salsedine, non so gare. Avanti a te. Assassino o Salsedine? Non ho capito. Io ho capito Assassino. Io ho capito Salsedine, Riprendete voi, datemi 5 minuti, sto facendo una cosa. Riprendi tu. Occhio da Ruginito, che qua sono tutti quanti da farati. Chiaro periodo che lo stavo vendendo, nessuno ne ha voluto, allora mi sono messo le luci blu e me l'ho gingillato. A te che non piace quel Inter 3104, Gianni, a Roberto? Quale? Quello che hai tu? Sì. No, a me non piace, e non piaceva a me, Roberto mi aveva detto che era bello, e cosa ho detto a me, come estetica non piace. Mi piace più il mio che c'ha due strumenti, è più lungo, capito? Sì, vabbè. 0737 sicuramente è qualche corsente, certo esteticamente non è un granché, però togliamoci dalla testa una cosa, che l'estetica nel mondo radiantistico, parlo sempre per mia esperienza vissuta, dal tempo che trova, capito? Dal tempo che trova. Perché quando una radio è funzionante, funziona bene in tutte le sue funzioni, dobbiamo apprezzare queste cose. Se poi esteticamente non è bella, sono altre cose, capito? Però io parlo di funzionamento. Funzionamento con la radio è eccezionale. Ha una bellissima ricezione, una bellissima trasmissione, funziona in tutte le sue cose, quindi non è che uno debba dire... Devo dire, non è che funziona male, come diceva Roberto, cioè paragonare un cicattugio, vedo l'artesia, ma è sempre un cicattugio, perché sapete che anche io sono amante delle radio vintage, ma per me sono radio vecchie, baracchini vecchi di paragonare con una cresta sintonia continua, ma è una di cose non lo vedete. Di battato o di minestroni? Dai, facciamo una brava, sciocco. Vai Claudio. Vai, c'è di tocchi che da lui. No, è produzione di principio, cioè anche per la gente che ascolta, no? È un dato di fatto. Perché molte volte a me mi arrivano dei messaggi da gente che sta ascoltando, cazzo, ma che si guardi che desiderio di vizio. Cioè, bisogna stare attenti a come si parla. Io cioè, massimo rispetto per Roberto, per tutti, ma quando io sento una cosa del genere, paragonare un baracchino vintage a una radio HF che ha fatto la storia, che ancora la sta facendo perché è una radio eccezionale, ma non perché l'ho avuta io, ce l'ho io, è un'esperienza vissuta, capito? Cioè, non si possono paragonare queste cose. Uno è una HF a sintonia continua con determinati parametri di telecomunicazione, uno è un baracchino vintage che è sempre un baracchino, Gianni, lo sai come la penso io, no? Io sono che vogliamo la 1983, ma non solo, ho usato IAES, ho usato ICOM, ho usato Standard, ho usato Pentec, ho usato di tutto e di più. Le radio che mi piacciono sono i K-Wub, ma non è che posso andare a dire un K-Wub è meglio bello l'FT1000 della Yaesu, o l'FT1000 è meglio di un 756 Pro 3. Non lo posso dire, perché non sono all'altezza per poterlo dire. Vabbè, è una questione di pareri, Clara, ognuno la pensa come vuole. È una questione di pareri. Chiara Ruginito, lo senti l'ecco? È una questione sempre di opinioni. Io lo stesso le ho avute le due radio 240, le ho avuti, però non mi piacciono più di tanto. Mi trovo meglio con gli apparecchi come te, con i baracchini. È una questione di gusto, di cosa. Comunque questo qua sta uscendo bene adesso. Non ne ho fatto nulla, c'ha 3,5 watt, esce abbastanza bene. Ma tu l'hai avuto e quindi non ti piaceva perché? Perché ti dicevano coglionate, Gianni, tu l'hai avuto e ti è sempre piaciuto il Kevud, però ti dicevano coglionate, tu davi retta alle coglionate che ti dicevano e siccome ti conosco ti sei rotto le barre e te l'hai venduto. Ma non mi puoi dire nel modo più assoluto che è un problema di opinione. Non si fanno questi paragoni, non si fanno queste opinioni e non si fanno queste cose, non si dicono soprattutto. Perché per chi ascolta è una cosa un po', capito, posso anche dire ma questo è ignorante o cosa sta dicendo? Sta ignorando l'evidenza di una radio oppure non ha esperienza di niente. Però non mi permetto di dirlo perché conosco Roberto. Quindi accetto, ma non si può nel modo più assoluto paragonare un baracchino vintage, sia che ce l'hai tu, sia che ce l'ha Roberto, io l'ho avuto prima di voi, quindi so esattamente di cosa stiamo parlando, con una radio ATF, ma non esiste proprio, non c'è nessun poi, e interrosse per tutto Sassari, per tutto il nord di Sardegna e per tutta l'Italia, oltre che tutti parlino di chiedo di quando in tanto non li sanno usare, e hanno la voce del cazzo che non li fa uscire. Io uso il Kevod perché li so usare e perché la mia modulazione non solo il Kevod, ma qualsiasi tipo di apparato che fa saltare la testa, come quello che a te non piace, che io te l'accendo e funziona benissimo, è anche troppo forte per quello che mi hanno detto. Quindi una radio, uno che ce l'ha, la deve saper usare e saper apprezzare, capito? Se uno non la sa usare, non la sa apprezzare, è meglio che la lasci dove. Eia, eia, dai, non ti scaldare per così poco. Ti hanno toccato la tua chicca, è come se a me mi toccassero il Galaxy, è la stessa cosa. Mi puoi dire tutto, però il Galaxy è una radio che io preferisco, però ti voglio correggere una cosa, a me le radio mi devono anche piacere, oltre che uscire bene, mi devono anche piacere, perché ce li ho davanti, mi piace vederle illuminate in una certa maniera, mi piace vedere una certa estetica, è una questione di gusti, poi tu puoi accontentarti, ma io non sono così, sono fatto così, se non mi piace una radio tipo il Presidente, a me non piace come radio, e tu mi dirai esce bene, quello, però non mi piace, c'è poco da fare, sono fatto così, avanti Chiodo Ruggirito. Perdonami Gianni, non confondiamo ora con la setta, però attenzione, il 140 per me radioamatore ECB è un baracchino a sintonia continua, su quello non ci piove, ma non ha da paragonarsi con un vintage baracchino, che possa avere 260 canali, che ne possa avere 400, è un baracchino canalizzato, punto e basta. Non c'è, io questo paragone voglio farvi capire, ok? Che poi il 140 e il 680 siano due baracchini a sintonia continua, su questo non ci piove, ma sono belli esteticamente e funzionanti al 100%, ma non paragonare con nessun tipo di altro baracchino, perché non sono HF ai livelli che dico io, Claudio, capito? Già un HF superiore al 140 è il 430. Già il superiore al 430 c'è il 440, come estetica, come vice trasmettitore il 430 per me rimane sempre il numero uno di quelli che io ho provato e che mi sono fatto la mia esperienza. Ok, poi dobbiamo parlare di HF, dobbiamo parlare di HF seri, di HF come quelli che ho io o che avevo io, che ho dato, ok, allora poi me sono baracchini a sintonia continua, punto. Non è che li sto contando che sono, però quando sento un paragone tra un 140 con una radio vintage, ok, io sono il Bacchi, che è il numero uno dei vintage, ok, nessuno mi può contraddire, sia come bellezza e come funzionamento, perché c'è 240 canali, c'è la CSB, ma come bellezza e come funzionamento, non ci sono dubbi su questo, nessuno mi può dire il contrario. Eppure a molti non piace perché è un barragione, ma cosa me ne frega a me, ma se è nata così? Anche a me piace il gas di un barragione, non mi piace perché io gli ho fatto gli spazi apposta per metterle, tutto quanto, ci sta bene dove c'è lui. Gianni, togliti dalla testa, l'ho detto e lo ribadisco, il Galaxy è il miglior baracchino, puoi chiamatelo apparato, chiamatelo radio, per me è sempre un baracchino, il miglior baracchino per la 27, come è strutturato, come è fatto, come è bellezza, come funzionamento, come tutto, non ci sono dubbi, stiamo parlando di un baracchino bello e funzionante, per me è il numero uno, ma non paragoniamo mai cose che non c'entrano niente con i baracchini, non si possono paragonare, perché hanno dei funzionamenti completamente diversi. Cosa vuol dire c'è il filtro? Perché il 140 non c'era il filtro? L'NB che cos'è? Che cos'è l'NB? Non è un filtro a sintonia continua, praticamente agisce su tutte e cinque le bande. Ma io ci muovo bene, vabbè, dai, ti pensavo fosse un po' più acculturato. Riprendi Claudio. Guarda, dipende dalle caratteristiche, ad esempio il 140 che ho io, che è questo che sto usando adesso, ha più watt del 430 e del 440, dipende. Sono radio che purtroppo hanno mille funzioni e mille regolazioni. C'è gente che lo lascia per dire con i watt, però o dalla casa, però l'hanno con 30 watt per la M, ma è modificabile, c'è anche scritto nelle monacese che si può modificare senza darle il massimo, però si può dare il 50% più, quindi lo puoi portare anche a 100-120 watt di PEP in banda laterale, in M lo puoi portare anche a 70-80 watt, non di più, perché la portante è fissa e quindi può scaldare il finale. Dipende dalle funzioni che uno ne ha, ok? Sì Gianni, ma cioè, stiamo parlando di cose, capito? Che poi a te ti piacciono le luci blu, a me non piacciono le luci blu, e a te ti piaccia mettere il radio in una certa maniera, a me non può piacere, quelli sono gusti, ognuno ha i suoi gusti, a me piace la radio con le luci bianche, perché la radio è nata con le luci bianche, mi piace con le luci bianche, normale. Piace con le blu e io concordo, non c'è problema, però stiamo attenti quando facciamo i paragoni, perché non si possono paragonare determinate radio con determinate altre radio, ok? Oppure un HF con un baracchino, non si possono fare comparazioni, stiamo parlando di un mondo completamente diverso. A me tanti mi dicono, cazzo io l'ho avuto, non esco come te, perché tu non riesci a farlo andare come lo faccio andare io. A me me ne hanno portato una perfetta, nuova di pacca come questa, eppure non va a lui, io l'ho messa qua, mi ha sentito Roberto e mi ha toccato con te, va, come mai come va, non lo so, prendi la fortuna, dimmi fortuna, dove sei? Non ti sento fortuna, qualcuno sente fortuna, Polacchi? Claudio, sente fortuna? Sì, adesso ti ho sentito fortuna a Florina, evidentemente poco fa di nel fosso, non riuscivi a uscire, va? Ok, a Florina si chiami, a riprendi, ciao. Attenzione Lacchi, senti a doppio rumo. Sì, certo ti controllo, ma che ti conosco molto bene. Vediamo un po' te rilancio Gianni doppio rumo, vediamo se l'hai sentito, vai già. No, non l'ascolta ancora, dov'è? A Florina. Oh, attenzione Lacchi, mi ascolti? Aspetta, già ti sente lui, come non lo senti tu? Non lo so, non lo sento. Non sente Claudio Lamuros? Vabbè, sì, Muros sì, zona buona, per quella zona lì. No, qua è 7-8, non c'è problema. Dove sei adesso Fortuna? Campomera, vediamo un po' se lo senti adesso. Prova Fortuna per Gianni? No, non è che... Cazzo, questo mi preoccupa. Campomera è abbastanza aperto per te. Vabbè, ok. Comunque, io la penso in questa maniera, voi la pensate in un'altra, non è che io condivido, ma no, come si dice, no, però sono delle cose Comunque si dice lo rispetto, rispetto ma non lo condivido. Lo rispetto ma non condivido, sì. Lei è fortunato, no, è Gianni che non ti sente, quindi stavamo commentando una cosa, No, già, ma ci mancherebbe altro, io non voglio rispettare niente di nessuno. Io quella radio che tu sai l'ho presa, sinceramente parlando, per fare un buco sulla parte vintage, non è che non mi piace la radio che avevo già, quindi visto che era in partenza, la prendo io per 2 secondi, la metto lì, però funziona, non posso dire che non funziona, funziona perfettamente, sia di ricezione, di trasmissione, esce benissimo e va molto bene. Ciao, le cose che servono per una radio vintage, tutto qua, va bene, avanti duro, se ne pensi. Sì, ottimamente bene, no? C'è piaciuto anche con Rosso stasera, che poi è sparito, non so che fine abbia fatto, comunque arrivarvi benissimo, non c'è problema. Avanti, Racchi, orco, lo sai, io sono sempre un orco in radio, perché è troppo alta, troppo forte, troppo brutta, com'è? Ah, sì, perché la stanza è molto più vuota, fortuna, rispetto a prima, ho fatto dei cambiamenti e ho mandato via un po' di radio e ho tolto un po' di basi, un po' di scrivanie, quindi è per quello che mi sento un po' più rimbombante. E vabbè, non fa niente a nessuno anche se rimbombante. Avanti Gianni. Non lo sento, un attimino solo che sono al telefono. Non lo senti per niente, vabbè. Avanti Claudio, ripeto. Sicuramente è vicino, quindi è per quello. E sei fortunato. Via, va bene, vai. Sta entrando in galleria, no, è qua, è fortissimo, ma era già Santiago 7-8, la Florina, sì. L'ho sentito quando era nel fosso, poi quando ha iniziato a salire arrivava abbastanza bene, dai. Non c'è problema, ok. Vediamo un po' se Gianni ha finito il telefono, se no non so, c'era anche Roberto, non c'è più. Ho finito, Roberto l'ha demolito, se n'è andato. Roberto, sì, sì. Ma ho sentito, sono al telefono, Bianco sono al telefono, oppure Bianco un attimino, forse è arrivato qualcuno. Io non demolisco nessuno, Gianni. Io parlo per, come si dice, per esperienza vissuta. Quando sento dire delle cose che non mi stanno bene, io non ho più niente, io dico. Sia radio che di persona, e te lo dovete conoscere, quindi non si possono fare questi paragoni. Poi ripeto, a prescindere, come hai detto tu, non condivido certe cose, ecco, non mi ricordo la frase esatta, comunque non le condivido. Perciò è chiaro che devo intervenire e dire la mia, perché la radio è fatta per fare anche, per dire, per fare anche queste cose. Se uno è d'accordo su un apprezzamento, su una cosa, lo deve dire, non è che, come sento tante volte, ah sì, sta uscendo bene, e poi, cioè io sono in ascolto e sta uscendo male per me, quindi diglielo che non sta uscendo bene, ma te lo devi dire, sta uscendo bene per farlo contento, non va bene. Ok, riprende e fai girare. Ma infatti è così. Infatti, no, quello lì sono d'accordo con te. Se sta uscendo male io glielo dico. Non si deve offendere, deve pensare che se sta uscendo male è meglio che glielo dicano, per cui così si regola. Magari c'è qualche cosa da regolare, eccetera, è la regola. No, quello lì è giusto. Che non è che, se no essere falsi, dire che sta uscendo bene quando sta uscendo male, quello che pensa di uscire bene, cazzo, e poi esce male. Non va bene. Avanti. Vediamo un pochettino là. Se mi ascolti, io non ti ascolto, purtroppo. Quella zona per me è un po' negativa, è più positiva quella del mare. No, perché deve essere in galleria intanto per 5 minuti, poi io vado a sistemarmi il cane già. No, vabbè, ma per scendere, quella è una cosa che può anche capitare, io per dire ho sentito a volte dei consigli, ma io con la mia radio lo ricevo bene. Vabbè, sarà la tua radio, lo riceve bene, io lo ricevo male. Capito? Cioè, delle cosettine che magari si potrebbero anche evitare, però sentire questi paragoni non ci sto. Non ripeto, perché io ho delle radio Kenwood, non solo, ne ho anche altre che non sono Kenwood, ma paragoni del genere non si possono fare. Baracchini sono baracchini e le radio sono radio, io le definisco così, perdonatemi se sono monopolo in questa la mia affermazione, però il baracchino è il baracchino, grande quanto sia, bello quanto sia, per me è sempre un baracchino. La TF io lo chiamo un apparato, una radio o una macchina, quindi attenzione a queste frasi, perché quando uno parla di macchina, i radiomatori quando si esprimono in radio parlano di macchina, questa macchina perché è proprio un motore che in telecomunicazioni la TF, mentre il baracchino è, rimane, sarà sempre un baracchino, qualsiasi tipo di baracchino, bello quanto sia, per me è definito sempre un baracchino canalizzato. Avanti, Mugos. Ehi, andiamo a guardare, ma le messe su Facebook in prima pagina? Nella tua storia le messe? Sì, quascelle, no, mi stavo che ero fatto il commutatore, mi stavo preparando, così domani mattina me lo collego, devo mettere due tassellini piccolini a muro, dietro la scrivania, in modo che non si vede, per commutare la radio da una base all'altra, da una scrivania all'altra, qua, capito? Perché qua ci sono le radio HF, ecco, quindi le cose diverse che io faccio, a me piace fare così. Questa è una base dove ci sono le HF, dove io posso anche usare la 27 naturalmente. Poi commuto e con i cavi che sono sotto, praticamente canalizzati nella corporatura, dall'altra parte, dall'altra base, cambio sedia e lì ci sono tutti i baracchini di cui anche il vintage. Giusto per non confondere la lana con la seta. Va bene, dai, io vi saluto e vado a portare il cane. Buon proseguo di questo a tutti, circolare, perché è un ascolto per chi è radio. Ok, ci sentiamo più tardi se ci siete, altrimenti alle prossime. Vai Gian. Ehi, ciao Claudio, dai, buona passeggiata quando la farai. E buona carica quando fai la carica. Ciao. Sentiamo dopo. Ciao Gianni, chi è? Ciao Marino, tu sei? Sono Bruno, ciao Bruno, ciao. Cordialità, saluti, buon proseguo. E bene, fai girare per muro se arrivi. No, non è Marino, ho sbagliato io. Bruno Uragano, avanti Bruno, buonasera. Siamo confuso per Marino, la modulazione è più o meno uguale. Vabbè, può succedere, da. Miscuglio di modulazioni. C'è muro, scopa per essere la scuola. Gianni. Avanti, chi mi ha chiamato? Sì, Gianni, Lucky, Fortunato. Io adesso entro per salutarvi perché sto arrivando in capannone già. Saluto a Claudio da Muroso, non so se mi sente. Bruno, saluti e ciao Gianni. Un buon fine settimana, ci sentiamo. Ciao Lacchi, ma tu mi ascoltavi? Certo che ti ascoltavo già, io ti chiamavo. Ma non riuscivo a sentirti, zona un po' loca per me. Va bene, ciao Lacchi, buon fine settimana, buon tutto, ci sentiamo. Avanti Bruno per i saluti all'Acchi. Cosa vedi? Sì, è buono, è troppo forte anche. Aspetta che ti faccio il caffetto. Ciao. Buona sellaro a tutti, buona sellaro e buon basilico. Ciao Lucrezia, ciao Lucrezia, ciao Lucrezia. Ciao Gianna Nannini. Dimmi ciao, mi ricaio. Andiamo qui, andiamo, niente. Mi allacchi. E beh, Luca. Dai Luca, stai tra le capannone, ci sentiamo. Ciao Fortunato, buon rientro, buon tutto, saluti in casa, ciao. E anche tu ricambia, dai. Gratis. Avanti Bruno raga. Va bene, buonasera a tutti, io sono ascoltando le vostre piatte. Ho un bel po' di tempo, me lo sono giocato a mezzo, stanno ascoltando perché è la cosa che mi ha detto, non sai più dove sono stato, non sai più dove sono stato. Molto bello, mi è piaciuto. Oh già, l'antenna va bene, sì, è rimasta tale. Ma penso di sì, Luca, e all'Acchi non lo sentivo. Oggi non lo sentivo all'Acchi. Lui mi sentiva, io non lo sentivo. Ciao Baracchino, ma adesso non lo sentivi? Adesso sì. Ah, boh, magari è zona. Vabbè, fortunato c'è un antenino così, mi già. Non è di quelli, sai com'è, quelli fissati, non te la così c'ha. Ma lo sentiva Bruno a San Francesco con una mini turbo, cazzo, boh. Allora buon rosso, no, ma non penso che sia la problema di antenna. Se i segnali degli altri ti arrivano sempre uguali, boh, rosso, via, roba via. Luca, tu quanto stai mirando quell'apparato, quello modificato? Il mio? Beh, almeno 200. Ah, appagato. Ma è nuovo? È nuovo, però non è manco vecchio. C'ha qualche graffettino, vorremmo rifrescare i tappi. Poi del resto è a posto, capito? C'ha anche per la scorta che è escludibile da dietro, un tassino. Vabbè, no, questo così, per un amico, se... adesso vediamo. K. Avanti, Bruno, compratelo tu questo apparato, questo è buono, praticamente è un modificato, è un apparato modificato, c'è tutto, c'è bande laterali. Ma io adesso sto vedendo un po', sto chiedendo perché io Mario ho fatto a quel tempo, non devo fare fuori quella vita mia, come avevo le famiglie che dovevano correre con l'attività. Sto pensando, voglio acquistare una vita per cattura, come una volta, oppure voglio essere consigli anche perché vorrei avere anche le altre bande, non so già cosa così tanto. Però sto valutando poi alla fine se riesco a portare una bella antenna sul tetto, ti voglio trovare l'antenna. E comunque, adesso mi sto chiedendo, mi hanno dato un apparecchio che credo non sia neanche omologato, per cui se si cercano un due altri non sono ancora il campo. Sì, no, io questo che sto usando è 3 watt e mezzo, per dire, non so come sta uscendo. Io ho applicato un microfono amplificato e penso che vada bene. Ma non è, io non sento un microfono amplificato, sì, però sento un ritorno, capito? Cioè sento la tua voce, se mi sento 2 o 3 volte, capito? Ma tu di chi hai? Io sento con i semi di capito? Non è come un amplificato. E il microfono è stato probabilmente male per come arrivi a me, capito? No, perché c'ha l'eco, adesso bene sta uscendo, normale sta uscendo. No, non è così, che era l'eco, io dicevo io, porca miseria, allora, anche perché ci sento molto forte, e qui diciamo che va bene, esatto. Rispetto, per quanto riguarda la caricatura, adesso mi sto facendo, c'è anche un amico che ha di partire vicino a me, che è quello che mi ha preso a fare, che mi sembra sia qualche qualcosa che va. Cosa volevo? Volevo perché se acquista tutto il posto di buono, però magari non è la caricatura, mi sembra perché vuoi pensare da, può dare una caricatura che mi sono sentito, mi ha regolato un radio da solo, guarda, questo passare così bene, io sono stato 30 anni lontano, ho lavorato tutto e adesso mi sto contento perché ripeto, sto entrando, sto aspettando anche i vecchi amici, mi fa piacere, però non sono tagliato anche di casa perché è stato bello. Ecco, a voi, Bruno Uragano. Già, stamattina verso le 11:30 così, è morto un tipo lì via Brigata Sassari, prima del praticamente di fronte dove c'era il Martorino, mi pare si chiama, c'era fermata del tram, si è accasciato, infarto fulminante, 60 anni. Così l'hai visto tu? Era in terra allora, era coperto con quel coso che sembra stagnola. Sì. Quello lì è per quando tu, per gli ustionati, serve. È una coperta termica. Vabbè, purtroppo, quindi. Poi ci siamo domani, no? Non meglio vivere, sarà la vita, Luca, è da vivere. 60 anni avrebbe. E qua c'è su internet, scrivi... morto in via Brigata Sassari, l'ha messo canale 12, c'è TeleG, no? O come ti si chiama? Mi sa TeleG. Sì, sì, ero lì. E poi l'ha scoperto un attimo, si è messo il viso che era tutto viola. Avanti, c'è la Ruggini! A te saluta babbo un po' stai uscendo male sei allucinante buon po' sei allucinante, cosa hai fatto adesso? Ah boh, non lo so, ho toccato niente, ho acceso, ah vabbè c'è acceso, come si fa, non si capito niente, che sta uscendo malissimo. Aspetta un attimo, attacco l'altro. Andiamo, l'hai visto già? Sto leggendo, dice che era pressionato. Non lo so. Per come l'ha messo sembrava anche un tipo abbastanza piazzato, Non dico come te, più o meno la pezza tua, dai, più o meno lì siamo. Si è accasciato lì, Hanno chiamato i soccorsi, hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo. Ciao. Il cuore, se si ferma a quello si è buttito. Certo, ma basta anche un ictus al cervello, anche se tocca il cervello si è fregato. Che ne sono tanti di mani che ti posso avere, ma c'è un embolo, qualsiasi cosa, un trombo. Infatti, purtroppo, proprio come tutta la vita bisogna godersela. Senza stare lì a bisticciare, perché poi ti arrabbi, sudi e muori. Avanti Bruno, riprendi. Ma quella persona è stata poco fa, è il vecchio Pomponio, ma anche quel ragazzaccio che abita sulla Serra Secca, che mi pare si chiama Santonello, se non sbaglio, come si chiama? Come si chiama lui? Quello è già visto, ciao, bello, ben sentito. Ancora si trova già. Allora, hai visto, mi c'è qualcuno tu, lui è la baracchina strano. È sempre gonfio, capito, sempre gonfio, tutto gonfio, vero Pompo? Tutto gonfio, tutto gonfio. Pomponio, ragazzi, abbiamo visto la mia fatta però non va, ti ricordi? Ehi, già mi ricordo, non ti preoccupare. Ma com'è che l'ha piazzato, guarda, che già quante cose ti ho detto io quando stavo su a Beghia, piazzati i bacchi, devo avere tempo qua là. Ma non è che l'hai trovato adesso? No, mi assento un attimo. Ehi, sono arrivato anche l'altro, ma mi ascolto. Ciao a tutti, ciao Bruno, ciao, ci sentiamo, dai, andiamo, alle prossime, avanti Antonello Pompugno con la buona sera. Ciao Gianni, ciao Bruno, ci sentiamo, stammi bene alle prossime. C'è rimasto Bruno, lo so da chi io qua. Bobo. Non dire dopo, no, siccome c'è un bel po' di roba accesa c'ho qua. Mi sto sistemando degli apparecchi, quindi si siete andata per forza. C'è tutti i cavi passano a destra, a sinistra. Adesso sono con l'altro, almeno questo è più filtrato. Avanti, ah, chiedo a Ruggito, se n'è andato, chi siamo rimasti? E tu, Antonio? Io e tu e le rose. Ci dovrebbe essere anche Marco all'ascolto. Marco, entra, io maniato vai. Sto digerendo, buonasera a tutti. Mi non fare il routine in diretta. Vi faccio la permanente a tutti, via radio. Ciao Marco, ben sentito, ben arrivato. Dai il cane, dai, ci parli tu con Alessio, così vi fa compagnia, dai. Buona serata, dai, ci sentiamo, che ho portato giù il cane, che ci sono già le 8, non me ne ho manco accorto, Dai raga, dai, ci sentiamo, alle prossime. Ciao Gianni, ci sentiamo, avanti Marco. Eia, ciao Gianni, buona passeggiata col cane, ci sentiamo. Antonio, sta uscendo non male di più, appena entrato. Tu raramente appena entrato esci bene, perché? Cosa sei tu che indi? Che altro c'è qua innanzitutto? Tanto adesso mi assento che venivo a fare il caffè, che altro c'è qua? Penso che ci sia nessun altro, non lo so. Per passare i cavi come si deve, ci sono i cavi a pezzo lungo a destra a sinistra, capito qua? Perché c'è un tavolo pieno di storie da sistemare, di VD, che li ho uccisi.